e nelle difese di strati e nelle periferie, che una nuova storia si sta scrivendo in questa città, un nuovo libro di una storia che è fatta di grandi gesti come l'occupazione della Telecom, ma è fatta anche di tanti piccoli gesti quotidiani, i primi passi di un bambino che nasce in una casa occupata, le intese, gli sguardi, la solidarietà che si crea. Martedì, dentro questo nuovo libro, è stato scritto un nuovo capitolo, un capitolo che ha pagine di brutalità, la brutalità che la polizia, che un esercito di occupazione, calato in Bolognina, ha scritto, un esercito di occupazione mandato dalla parte ricca di questa città, che vuole difendere i suoi privilegi. Ma martedì sono state scritte anche altre pagine in questo capitolo, pagine che hanno parlato di una resistenza unica, una resistenza popolare, una resistenza composta da chi, come Fedain, stava sul tetto, una risposta che è stata data dalle mamme dentro la Telecom, una risposta, una resistenza che è stata fatta dai bambini, dai vecchi, dagli anziani, da tutte le persone che hanno lì sotto. Martedì, in questa resistenza, abbiamo anche pianto. Durante quella resistenza, i nostri occhi sono anche sgorgati alle lacrime. Delle lacrime hanno attraversato i nostri volti, delle lacrime di umanità, delle lacrime di rabbia, delle lacrime che sono sgocciolate dentro un fiume di ingiustizia. Oggi questa piazza è un grande argine che ferma, che tampona questo fiume di ingiustizia. È un argine meticcio che però è pronto a farsi nuovamente fiume e ad invadere questa città. Quindi lo diciamo in tutte le lingue, al Mukawama, la luce, sigue, continuo le comma. We are still fighting, fighting back. La Telecom resiste, resistenza, resistenza, resistenza. Resistenza. Casa, reddito, dignità.